bosco di sera. Fra 3 mesi te lo prometto che il mio amore tu lo avrai, ti assicuro non è un dispetto, ogni cosa a suo tempo lo sai. 3 mesi sono lunghi da passare. Non scordare che ho 4 fratelli. Dove sei stata la gente ti guarda, resta in casa la gente ti guarda. Fra 3 mesi saremo in maggio e il mio amore ti darò. Gesù mio, dammi il coraggio di resistere a dirgli di no. 3 mesi sono lunghi da passare. Si piega anche il ferro, con il fuoco si piega anche il ferro. Sono una donna, non sono una santa, tu lo sai che non sono una santa.